passione amata, addio bella tortura, addio tortura, e addio canzone, addio, cardine l'opinione, addio mi va fatto cuore, mania di te. Maria, sono un'altra.